Mancano pochi giorni, 31 marzo, per l'iscrizione al Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino, parrocchiatorreglia.it per tutti i dettagli, il bando, le modalità. Ben ritrovato Don Giulio Osto, che è il direttore artistico del comitato organizzatore. Buongiorno. Torniamo su questo premio, allora, nona edizione, premio biennale, parola e mistero. Per i distratti delle scorse settimane, rifaccio una breve presentazione di questa iniziativa, appunto, che ormai da tempo è a Torreglia, a San Sabino. Sì, parola e mistero è proprio il titolo che vuole dare un orizzonte, un contenuto a questa proposta. Una proposta certamente particolare, perché un premio di poesia va a toccare un territorio, ecco, del tutto particolare. E qualcuno potrebbe chiedersi: è il frutto di questa avventura, di questa impresa che coinvolge tante persone, ecco, qual è? Ecco, lo possiamo vedere concretamente andando alla precedente edizione, cioè all'ottava edizione di 2 anni fa, del 2015, i cui frutti sono visibili ecco, nella pubblicazione dell'antologia che raccoglie le poesie premiate e le poesie meritevoli di pubblicazione scelte dalla giuria. Ecco, l'antologia è pubblicata da Project Edizioni, Parola e Mistero, Premio San Sabino, ottava edizione 2015, è acquistabile online nel sito dell'editore. Anche quest'anno, appunto, per questa nona edizione ci sarà poi la pubblicazione. Ricordiamo che la scadenza è il 31 per l'iscrizione, la premiazione sarà il 27 di maggio, quindi poi ci sarà anche in questo caso un'antologia. Già 2 anni fa avevamo dato meritevolmente spazio al componimento che aveva vinto. Allora, per introdurci all'edizione di quest'anno, cosa ci proponi? Ecco, siamo in marzo e la seconda poesia classificata dell'ottava edizione si intitola proprio 13 marzo, scritta dalla poetessa Angela Angiuli, ed è stata scelta e premiata dalla giuria, vincendo il secondo posto della sezione adulti, proprio perché è una interessantissima descrizione di un Dio, ecco, che prende corpo, prende carne, dove veramente abbiamo davanti una narrazione molto vivida, ecco, dell'esperienza di Dio, in questo caso anche proprio del Dio cristiano. Ecco, Angela Angiuli, 13 marzo, seconda classificata, sezione adulti, nell'ottava edizione del Premio San Sabino, Parole e Mistero del 2015. E l'ascoltiamo. E questa era 13 marzo, Angela Angiuli, seconda classificata, sezione adulti del premio, edizione 2015, ottava edizione, premio internazionale di poesia religiosa San Sabino. Don Giulio, un breve commento proprio preso dalla pubblicazione dell'edizione di 2 anni fa. Ecco, lascio il commento a Stefano Valentini, che è stato il presidente della giuria del 2015 e lo sarà anche nel 2017. Lui scrive così in merito a questa lirica: la poesia seconda classificata, 13 marzo, di Angela Angiuli, si presenta come una composizione di indubbia tensione espressiva, resa particolarmente dinamica dall'invenzione linguistica e dalle immagini danzanti tra spirito e carne. Il rapporto tra interiorità e corporeità si rivela essere il fondamento stesso del discorso dell'autrice, che vi cuce addosso una riflessione sull'amore e sul valore della sensorialità fisica, quale viatico all'incontro, all'altro, al significato che sta sotto la scorza del nostro nominarci individui. Il tema importante, come nella lirica vincitrice, è la distanza che si volge in intimità, scambio, reciprocità, secondo una osmosi dalle dinamiche nel contempo spirituali e tattili, quelle sì di un Dio che tocca, allegoricamente ma anche fisicamente. E questo appunto per darvi un assaggio, chi di voi già si cimenta in poesia religiosa, perché questo è il tema, o magari vuole cimentarsi, perché no, può andare su parrocchiatorreglia.it, lì c'è il bando, c'è ancora qualche giorno, 31 marzo per le iscrizioni a questa nona edizione. La premiazione sarà alla Pieve di San Sabino a Torreglia il prossimo 27 di maggio. Grazie a Don Giulio per essere stato con noi in questa settimana, allora ci risentiremo in occasione del premio. Buona giornata.